Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Fate aiutare da Meassa e dalla Rosciani. Ascolta sempre quindi Due di Denari. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Perché a questi qua non gli bastava aver venduto 200 milioni di miliardi di dischi negli ultimi tempi, quasi quanto i Chapter 11. Quasi, magari, magari. Cara Deborah, buongiorno, benvenuta a Due di Denari. Che avvio frizzantino stamattina, un po' sì, i pop. Le note che hai ascoltato sono quelle dei Bangtan Boys o BTS, insomma. È una boy band, ma si fa per dire boy, perché questi signori, ecco, sono in giro. Quasi fuori portata per noi dal punto di vista anagrafico, ma ci siamo dovuti documentare per forza. Molto velocemente anche ho stamattina. Ho scoperto da San Wikipedia, protettore degli ignoranti musicali, come noi, come me, che questi giovanotti, non so come definirli, coreani, sudcoreani, dal 2013 hanno venduto la bellezza di 20 milioni 300 mila dischi fisici, quindi non tracce scaricate dalle varie piattaforme, no, perché probabilmente le varie Spotify, forse quel numero lì di tracce scaricate, ascoltate con lo streaming eccetera, forse non ci stava neanche nello schermo del computer a sto punto. E allora, che fanno questi signori qua, ecco, questa band di K-pop che fa impazzire i teenager? Perché la loro etichetta, la Big Hit Entertainment, che è l'etichetta appunto dei Bangtan Boys, dei BTS, ha fatto una IPO, un'offerta pubblica, al top della forchetta di prezzo. Si quotano in borsa praticamente, cerca di essere, ma di semplificare il linguaggio. È la più grande quotazione in borsa in Corea del Sud degli ultimi 3 anni, quindi... Questi signori, per avere prodotto, perché questa è appunto l'etichetta che produce il gruppo sudcoreano, il gruppo, la boy band, ecco, questi signori qua fanno la pubblica offerta per quotarsi in borsa più importante degli ultimi 3 anni in Corea del Sud, non esattamente un mercato da niente, come sai, molto importante dal punto di vista tecnologico. Non tutto è perduto, insomma, nel mondo della finanza si quota anche qualche società alternativa alle big della tecnologia, perché sembra che il mercato sia spinto solamente dalle varie piattaforme che ci fanno lavorare in questo periodo da casa e poco altro, e invece serpeggia qualche altro di interessante, insomma ci fa piacere. È se un mondo che è un po' distante. Vuole investire sui Chapter 11, noi facciamo una IPO pure noi, non sappiamo bene per come farla, sì, però ce lo inventiamo. E però ti voglio dire che tu lotto mi avevi, minimo 2 centesimi. Tu mi avevi parlato di quel signore lì importante che aveva messo 1 miliardo per Warren Buffett, che aveva investito nello snowflake, nel fiocco di neve, nel cloud, in quella, quindi, roba che ti consente di immagazzinare nell'aria i tuoi dati. Una cosa high tech, proprio, che più tech non si può. Sì, ecco, dove vuoi arrivare? No, voglio dirti che gli investitori istituzionali per questa band, per questa etichetta della band, hanno espresso interesse per più di 1000 volte il numero di azioni in offerta, quindi... è un buon segnale anche per tutti gli amici musicisti. Chissà, magari le vostre etichette provassero a quotarsi, bisognerebbe avere in, come dire, in scuderia qualcuno come questi ragazzi. Ma qua, secondo te, una società come questa può essere inserita nell'ambito di un fondo pensione? Ma secondo me sì. E poi questi signori qua adesso sono giovinotti, va tutto bene, ma certo, saranno pensando, ne dovremmo parlare per tutta la trasmissione, Gianmarco, che cosa ne pensi? Perché la roba musicale a lui rimane qua, no? Quando c'è qualcuno a cui va un po' meglio del suo gruppo che non è difficile. No, perché questi giovinotti devono sapere che è meglio prepararsi prima per pensare alla pensione. E noi avremo anche degli ospiti di valore mondiale come loro, che gli diranno come equalmente si faranno proprio dei progetti in questo mese imminente di ottobre del risparmio, per spiegare l'importanza di pensare alla pensione, diciamo in generale alla previdenza, alle tutele previdenziali già dagli anni dell'università. Pensa un po'. Perché lo facciamo proprio oggi questo argomento? Ma perché oggi è martedì, e martedì c'è l'alfabeto del risparmio. Vabbè, c'è la patata in bocca stamattina, guarda, stamattina come capita a me ogni giorno praticamente. No, non è giornata. Allora, a questo punto con facciamo ordine. GRR, sì, un giornale radio del risparmio. Molto bene. Poi magari cominciamo a introdurre un po' i temini della... Molto volentieri. Partiamo. Proviamo. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Penserei mica che la dica io questa prima notizia, non ci penso nemmeno, te l'ho già detto che sono refrattari a questi argomenti. Ci hanno informato dalla Corte di Giustizia Europea sì, che l'avvocato generale Pitruzzella ha preso una posizione abbastanza complessa sul tema contante sì, contante no. Allora, è stato, la Corte è stata interessata da, da un procedimento sorto in Germania perché due cittadini tedeschi volevano assolutamente pagare il loro canone di radiodiffusione, praticamente come se fosse il canone Rai locale. Lì non glielo devono piazzare nella bolletta della luce, lo pagano spontaneamente. Ecco, però loro volevano pagarlo sì, ma in contanti. Ah. E gli hanno detto no, perché accettiamo solo il bonifico, insomma, non volevano il contante. Lo strumento tracciabile. Oh, questi signori tignosetti, anziché alla no, tedesca, sono andati fino alla... sono andati in tribunale, dal tribunale è stata chiamata a decidere la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ancora non ha deciso. Ah, non c'è ancora una decisione. No, no, l'avvocato generale è colui che tiene la requisitoria, cioè presenta ai suoi colleghi giudici come stanno le cose e come la vede lui. Poi non è detto che il suo parere sia quello approvato definitivamente, però come la vede l'avvocato generale Pitruzzella dice: allora, il diritto dell'Unione, a suo giudizio, prevede l'obbligo di accettare i contanti in pagamento di debiti pecuniari. Quindi se uno si presenta con i contanti, lo deve, ci devi stare. Non, però ha detto, però è lecito che sia l'Unione sia gli Stati mettano delle, così impongano delle condizioni per cui ci sono dei limiti all'utilizzo delle banconote a determinate condizioni e nell'esercizio di competenze, ha detto lui, diverse da quelle riguardanti la politica monetaria. Quindi, ad esempio, la lotta all'evasione potrebbe essere un motivo per giustificare la riduzione nell'utilizzo del contante. Fa piacere sapere che questo dibattito è aperto anche in altri paesi che non siano il nostro, perché sennò sembra sempre che siamo la Cenerentola d'Europa su questi argomenti e invece anche altrove appunto discutono sull'utilizzo del contante e anche questa che sembrava una barzelletta, c'erano due tedeschi che volevano pagare in contante, esatto, l'abbonamento sì, televisivo, e insomma dibattito apertissimo anche altrove. Mentre si attende una decisione appunto a favore o contraria a questi due signori tedeschi, in Italia invece c'è una, come dire, abitudine che si sta sempre più consolidando, forse anche in virtù del fatto che adesso parte questa iniziativa di cashback, quindi di ritorno di un po' di soldini se fai tante spese utilizzando il bancomat o la carta di credito. Allora sembra che dopo l'esperienza della quarantena della scorsa primavera si sia registrata una decisa intensificazione, ma in realtà lo stiamo raccontando da diverse settimane, nell'uso della carta di credito per i pagamenti. Cresce infatti la frequenza media di utilizzo nel nostro paese a 2,9 volte al mese rispetto alle 2,6 del 2019 e al 2,2 del 2018, ed è aumentata anche la quota degli utilizzatori più frequenti, c'è un aumento di circa il 4%. Questi sono gli ultimi dati sui pagamenti cashless, cioè senza contante, che arrivano dalla 18ª edizione dell'osservatorio carte di credito e digital payments, curato da Assofin, che è l'associazione delle società che erogano finanziamenti, Nomisma e Ipsos, con il contributo di CRIF, che è la grande banca dati praticamente dei cattivi pagatori, la conosciamo un po' così, ma insomma è la società che in realtà individua i comportamenti di spesa delle famiglie. Questo report viene presentato proprio oggi e siamo stati appunto in grado di anticiparvi alcune delle notizie che verranno diffuse. Ne parla oggi Davide Colombo sulle Sole 24 Ore. Tra l'altro, sul Sole 24 Ore di oggi, mi raccomando, colfe e badanti, ne abbiamo parlato qui a Due di Denari nelle settimane scorse. Dal 1 ottobre debutta il nuovo contratto, trovate i podcast sul nostro sito e ci sono oggi 4 pagine speciali proprio sui nuovi obblighi del nuovo contratto che parte da giovedì. Deborah, io direi di aprire la serranda del nostro sportello reclami. Ah, subito. Dillo a Due di Denari. Posso sapere perché l'IMU va in autoliquidazione, quindi devo essere io cittadino decidere, fare dei calcoli e poi pagare a mio rischio e pericolo, quindi se sbaglio in difetto ovviamente mi chiederanno gli arretrati con sanzione e divento comunque sia un cattivo cittadino. Per non sbagliare in difetto magari eccedo, quindi magari pago di più di quello che dovrei, non lo so, nessuno me lo dice, e quando anche poi qualcuno me lo dicesse pure, quando prenderò le differenze? Visto che sono un cittadino residente di un comune italiano, il comune sa dove abito, ha le mappe catastali, sa tutto quanto, zone di residenze, classe di immobile, eccetera, me lo devono dire loro quello che devo pagare. Me lo dicono loro, io pago, non sbaglio, né in difetto né in eccesso, e divento, o meglio, rimango un cittadino virtuoso. No, vai al comune e ti dicono, noi non lo sappiamo quello che deve pagare. Ma è una tassa vostra, scusate, come fate a non sapere quello che devo pagare? Ditemelo voi. Uno strascico della puntata di ieri, Mauro. Sì, di cui abbiamo parlato, peraltro più di tassa rifiuti. Ma è lì poi il motivo per cui si lamenta l'ascoltatore. Sì, teoricamente si potrebbe, il punto è che il comune dovrebbe sapere esattamente e tempestivamente se sono intervenute delle modifiche nella proprietà immobiliare, che so, uno ha cambiato casa, ha venduto, cose del genere. E questo non è in questo momento possibile, le banche dati sono diverse, una cosa è quella del comune, altra quella del catasto. Bene, andiamo a parlare, sì, di Danè, risparmio, ma soldi. Certamente, il nostro tema preferito. Conquibus. And we're down, we go. Iniziamo con questa canzone che così un po' agevola anche il clima, lo spirito dei nostri ascoltatori, ai quali invece dobbiamo spiegare un po' come tutta la collettività la pensa in relazione al proprio rapporto con mercati finanziari, borsa, soldi, denari, insomma il concetto finanziario nel più ampio termine. Salutiamo un ospite che ieri ha arricchito le prime pagine del Sole 24 Ore. Parliamo di Antonio Noto, Noto Sondaggi. Buongiorno dottor Noto, ben trovato a Due di Denari. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti, grazie. E allora, ieri avete messo a disposizione del Sole la vostra esplorazione sulle attitudini al risparmio degli italiani, che cosa è successo durante la pandemia. Anche noi qui da Radio 24, in particolar modo qui da Due di Denari, abbiamo messo in campo ogni osservazione possibile per cercare di capire intanto, in relazione all'andamento dei mercati finanziari che sono finiti sull'ottovolante, come si fossero comportati gli italiani che si sono spaventati. A marzo in molti hanno disinvestito tanto, per poi provare a riposizionarsi nelle settimane successive. In realtà voi avete scoperto che è proprio crisi di fiducia fra i risparmiatori italiani e per esempio la borsa. Ci racconta un po' meglio cosa è emerso da queste settimane di indagine da parte vostra? Beh sì, effettivamente c'è una crisi di fiducia, e soprattutto col fatto che i tassi dei contagiati continuano ad aumentare. Questo vuol dire che questi comportamenti che abbiamo rilevato nella settimana scorsa tra i risparmiatori probabilmente continueranno a essere vivi anche nei prossimi mesi. Quindi diciamo, non si è trattato solo di una fotografia rispetto a oggi, ma probabilmente questi comportamenti sono un po' proiettabili anche nel futuro, anche se parliamo di breve futuro, di futuro a breve termine. E le cose che mi hanno colpito sono queste, cioè per circa un terzo degli italiani, il 37%, la liquidità è diminuita, per circa la metà è rimasta uguale, ma solamente per l'8% è aumentata. È interessante notare, uno si dice vabbè, è aumentata perché probabilmente questo 8% ha guadagnato di più, invece no, è aumentata prevalentemente o perché ha ridotto le spese e i consumi o perché ha disinvestito e quindi ha acquisito maggiore liquidità. Quindi è un po' come se ci fosse, come dire, un attimo di stagnazione, no? I risparmiatori italiani, che sono sempre ma anche molto prudenti, bisogna dire, e che pensano sempre, come dire, di trovare l'investimento sicuro, in questo momento di incertezza, ecco, congelano i propri comportamenti e stanno a guardare dalla finestra, cercando di capire un po' la crisi economica internazionale, un po' la pericolosità della pandemia in corso, ecco che cosa, quelle che devono essere le loro mosse. Sicuramente l'impatto della pandemia è forte, è elevatissimo nel mondo degli investimenti, e il consumatore italiano, che diciamo ecco, non è eccessivamente anche acculturato alle dinamiche diciamo della borsa e dell'economia, ovviamente diventa timido in questo momento. E infatti privilegia, diciamo, delle scelte che voi avete chiamato, lo leggevamo appunto ieri sul Sole 24 Ore, conservative, cioè piuttosto non investe, e anche quelli che investono comunque si lagnano dei costi occulti di gestione, cioè le commissioni ritengono che siano troppo elevate. Insomma, in generale un quadro un po' preoccupante, specialmente per chi si occupa invece di risparmio, quindi i gestori, le banche, eccetera. Sembra che ci sia una notevole resistenza in questo momento a investire il proprio denaro. È preoccupante perché il timore non è di una, come dire, non si investe non perché si pensa che ci possa essere una crisi economica, ma perché si pensa che ovviamente il contesto della pandemia in atto possa influire poi su una perdita notevole. Quindi è un po' diverso per esempio dal 2008 al 2010, 2011, no? Quando c'erano veramente i mercati che andavano giù e quindi gli investitori spaventati cercavano di disinvestire. Adesso tutto sommato i mercati non vanno giù in maniera così repentina, ma c'è il fattore sociale, il fattore psicologico che influenza notevolmente il comportamento dei risparmiatori. Certo. Dottor Noto, ci dia un assist per la seconda parte della trasmissione. Lei ieri scriveva sul Sole: per un investitore così prudente il dilemma maggiore è l'incognita del futuro. Prevedere con precisione la sicurezza di un investimento è impossibile. È chiaro che una condizione come quella che stiamo vivendo limita fortemente la progettualità in ognuno di noi, ma quando parliamo del nostro futuro e del tenore di vita che avremo nel nostro futuro, dobbiamo invece immaginarci anche l'assegno pensionistico che percepiremo. Quello pubblico non sarà più sufficiente, dobbiamo mettere mano anche ad uno strumento di previdenza complementare, ma su questo tema molti italiani pongono delle resistenze ancora molto importanti. Noi ne parleremo nella seconda parte della trasmissione per il nostro alfabeto del risparmio. Lei su questo che cosa pensa? Che cosa emerge dalla rilevazione che ha fatto? Ma diciamo, indipendentemente dalla rilevazione, diciamo due cose. Uno, va bene, con una battuta, la pensione è un po' il sogno degli italiani, no? E quindi con la pensione si pensa al futuro. Dall'altra parte, ecco, questa timidezza nei confronti degli investimenti e soprattutto il comportamento di aumentare la propria liquidità, diciamo il conto corrente, probabilmente questo rappresenta un po' una rassicurazione per il futuro, no? Metto legna in cascina pensando che poi ci saranno tempi bui e quindi voglio sentirmi più rassicurato. C'è una cosa che voi notavate quasi di passata, il cashback, cioè questo sistema per cui si vuole incentivare il pagamento non in contanti, e però secondo il vostro campione praticamente un italiano su due non crede che sarà uno strumento efficace per disincentivare, per combattere l'evasione, il nero, diciamo così. Sì, è anche vero, diciamo che ancora parliamo di immaginario collettivo, perché è uno strumento in vigore da giorni e quindi ancora non si è potuto constatare con la prova del 9 diciamo quello che sarà l'effetto. Se ne però parla forse da giorni, ma in realtà lo avremo disponibile solamente dal 1 dicembre, sempre che Mauro arrivino i regolamenti in Gazzetta Ufficiale, ecco, eccetera eccetera. Quindi ancora siamo molto lontani dal vedere, sì, un'operatività di tutto questo, dottor Noto. Sì, sì, infatti forse probabilmente diciamo ecco non si pensa che questo possa essere uno strumento finanziario che possa ridurre il nero, perché si dice anche sempre, come dire, che il nero circola anche quando c'è molta, come dire, moneta, voglio dire, quindi pagare 30-40 euro, ecco, probabilmente non è quello che può, diciamo, ecco, infliggere un colpo sostanzialmente al nero, quindi forse è questo l'immaginario collettivo degli italiani rispetto a questo strumento. Certo. Bene, salutiamo Antonio Noto, lo ringraziamo per essere stato con noi, lo aspettiamo presto per un'altra rilevazione fra le abitudini di risparmio degli italiani, perché è un tema che a noi piace seguire con una certa costanza. Direi che adesso, caro Mauro, mi isolo un attimo da te, se mi consenti. Brava. Segui un attimo come stanno andando i mercati finanziari, visto che abbiamo appena saputo dal dottor Noto che, ohimè, c'è poca fiducia. Almeno tu rassicuraci, cioè, insomma, in una parola, Deborah, le borse. Non posso correggerla su nulla perché ci ho beccato su tutto. Quindi... alle volte la fortuna. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Siamo venuti qua oggi nel comune di Paglieta per vedere se la loro iniziativa che hanno proposto per il mese dell'educazione finanziaria sia replicabile anche in altri comuni. Quello che loro hanno fatto è mettere a disposizione la sala comunale per fare educazione finanziaria per tutti usando il portale Quello che conta. Quello che abbiamo visto oggi è che questa iniziativa è bellissima, ha coinvolto tutta la popolazione di Paglieta ed in particolare i giovani e gli studenti, e pensiamo che sia uno splendido modello che possa essere replicato in tanti altri comuni d'Italia. La voce, spero che i nostri ascoltatori l'abbiano riconosciuta, perché era quella di Anna Maria Lusardi, presidente del direttore del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria, Edufin, appunto, del Ministero dell'Economia. E lo scorso anno, il 6 ottobre, Anna Maria Lusardi, nell'ambito delle iniziative del mese dell'educazione finanziaria, che parte dopodomani, ha fatto tappa naturalmente a Paglieta. Perché? Non lo so, però lo abbiamo chiesto e lo chiediamo in diretta al sindaco, all'ex sindaco, di Paglieta, Nicola Scaricacciottoli. Buongiorno, ex sindaco, come dobbiamo definirla, insomma? Buongiorno a voi, ingegnere. Tutti gli ascoltatori. Ingegnere Scaricacciottoli, esatto. È ritornato al suo mestiere, però insomma ha lasciato un po' il cuore anche in questo percorso che lei ha tracciato per questo comune in provincia di Chieti. E il Comitato per l'Educazione Finanziaria spera che molti altri comuni possano replicare quello che il comune di Paglieta ha fatto sotto la sua amministrazione. Scaricacciottoli, che cosa ha fatto? Ce lo ricorda? Qual era l'idea di base che aveva mosso la sua iniziativa? Allora, noi abbiamo notato che c'era questa grossa iniziativa in atto, e chiaramente, come è normale che sia per un amministratore e per la sua giunta, abbiamo cercato di approfittare di questa situazione e quindi ci siamo appoggiati a questa iniziativa per cercare di sviluppare la coscienza finanziaria del nostro comune a tutti i livelli, dai più giovani ai più anziani, e soprattutto abbiamo avuto l'opportunità di renderci conto che la cosa era anche abbastanza semplice da fare, visto tutto il materiale che noi avevamo a disposizione entrando nel portale quellochecontapunto.gov.it. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato, anche attraverso un'associazione di volontariato, di utilizzare questo materiale e di portarlo a conoscenza dei ragazzi, che poi a loro volta sono diventati i docenti dei loro genitori, quindi di quelli più adulti, per veicolare tutte queste informazioni. Perché riteniamo che, e abbiamo sperimentato veramente, abbiamo toccato con mano, che effettivamente i ragazzi sono molto utili in questa fase di trasferimento di idee e di notizie, proprio per il grosso tasso di ascolto che hanno verso i loro genitori. Ecco, ingegnere, a me viene più da chiamarla sindaco, insomma, abbia pazienza. Ma guardi, comunque amministratore si resta per tutta la vita, per quello che sto sperimentando. Ecco, volevo chiedere, perché Paglieta non è un grande comune, e allora qualcuno potrebbe pensare, certo, ma come si fa ad avere i fondi poi per organizzare? Non mi pare che però la vostra iniziativa sia stata particolarmente onerosa per le casse comunali. Assolutamente no, assolutamente no. Noi siamo un paese di 4.500 abitanti, quindi anche le nostre casse sono adeguate al numero degli abitanti. Però voglio dire, occorre solo tanta buona volontà e mettere insieme gente volenterosa che possa essere d'aiuto per questo progetto, perché in fondo poi tutte le notizie, tutte quelle cose che bisogna diciamo in qualche modo sperimentare o scoprire o veicolare, le troviamo tutte sul portale quello che conta .gov.it, quindi si tratta soltanto di lavorare su questo materiale cercando il modo migliore per arrivare alla cittadinanza. Certo. Scaricacciottoli, senta, naturalmente gli italiani, lo diciamo sempre, sono dei grandi risparmiatori, lo hanno dimostrato anche in questo periodo della pandemia, e però, lo abbiamo raccontato anche nella prima parte del programma, molto spesso mostrano di essere largamente sfiduciati nei confronti degli intermediari finanziari, nei confronti di quelle figure che dovrebbero aiutare a prendere delle decisioni di risparmio e di investimento. Allora mi chiedo, perché è importante che queste iniziative le conduca un sindaco? Ma io mi sono accorto durante tutto il mio percorso amministrativo, e oggi questo di cui mi sono accorto, diciamo, il giorno per giorno si sta confermando, che in effetti il sindaco, o più all'atere il comune, per il cittadino oggi è il vero punto di riferimento. Per cui il comune, l'amministratore, il sindaco sono un po' quelle persone e quegli enti che possono in qualche modo influenzare positivamente la conoscenza di queste nozioni, perché sono scevri da qualsiasi interesse particolare e quindi sono veramente diciamo facilmente coinvolti dai cittadini. Come funzionava il coinvolgimento dei ragazzi che poi sono stati i suoi ambasciatori sul territorio? Allora, abbiamo fatto assieme all'organizzazione di volontariato Maria Stella Maris dei laboratori, praticamente utilizzando il materiale del portale quello che conta.gov.it abbiamo scelto degli argomenti. Scaricacciottoli, l'abbiamo perso per un attimo, non vorrei che adesso qualcuno abbia voluto censurare questa nostra conversazione, che però era ad un punto molto interessante e non c'era nessun contenuto. Diceva che con il materiale del portale e l'ausilio di un'associazione di volontariato avete diffuso, mi immagino, il materiale ai ragazzi, avete creato dei laboratori. Abbiamo fatto dei laboratori con questi ragazzi, scegliendo gli argomenti che loro ritenevano più interessanti, e li abbiamo in qualche modo elaborati anche dal punto di vista della possibilità di veicolare queste notizie agli altri. Certo. Una volta che li abbiamo condivisi, ragionati, elaborati, abbiamo fatto degli incontri con la cittadinanza dove i ragazzi sono stati i, tra virgolette, professori di queste nozioni, e quindi le hanno a loro volta veicolate verso le persone più adulte. E questa effettivamente è stata una mossa di notevole successo, perché effettivamente poi quando ci sono i ragazzi è più facile coinvolgere gli adulti alla partecipazione che non magari fare un normale convegno o qualcosa del genere, dove oggi per attirare gente è sempre più difficile. Scaricacciottoli, poi la salutiamo, il sogno del Comitato per l'Educazione Finanziaria di Anna Maria Lusardi è che tanti sindaci all'ascolto vengano un po' stimolati dall'iniziativa di Paglieta, che è stata molto concreta, che possano replicare appunto iniziative analoghe sul territorio. Faccia lei un appello ai suoi colleghi o ex colleghi affinché possano stimolarsi in tal senso. Ma io dico che è una cosa molto bella anche come esperienza personale e come esperienza di comunità. È una cosa semplice, abbiamo tutto il materiale a disposizione, che per di più viene costantemente aggiornato sul portale, per cui siamo costantemente aggiornati sulle informazioni. E poi i miei ex colleghi e amici sindaci sono bravi nel fare queste cose, ecco, cerchiamo di farglielo sapere. Noi comunque, come Paglieta, io personalmente, ma comunque siamo a disposizione, perché se chiunque volesse avere delle informazioni su come, un po' più dettagliate, su come abbiamo sviluppato questo progetto, che peraltro proseguirà a Paglieta anche quest'anno, siamo a disposizione per poter dare tutte le indicazioni, tutto l'ausilio e tutto l'aiuto possibile e immaginabile. Molto bene. Senta, Scaricacciotoli, noi la ringraziamo moltissimo. Io devo subito però rispondere ad un ascoltatore che scrive, perché sono quei messaggi che arrivano e che a me fanno prudere le mani immediatamente. Oh, santa pazienza. Posso? Cosa ti hanno scritto, no, Deborah? Dal Veneto c'è un ascoltatore, Sandro, che scrive: anche ANASF organizza corsi di educazione finanziaria per risparmiatori, per studenti adulti, parlatene. Sandro, se lei non ascolta mai questa trasmissione, non è un problema nostro ma è il suo, perché abbiamo dato talmente tanto spazio ad Economicamente, che è la grande iniziativa per la scuola di ANASF, l'associazione dei consulenti finanziari, che non sappiamo più come altro dirlo, per cui abbia pazienza, ma mi sento un po' offesa quando arrivano questi richiami che vengono lanciati così nel mucchio senza alcun senso. Comunque, chiusa la polemica, sul sito quellochecontapunto.gov.it ci sono tutte le iniziative segnalate e ci si può ancora candidare per presentare delle iniziative sul territorio. quellochecontapunto.gov.it. Ma non avevamo un collegamento anche con un accademico molto importante? Ma certo, vuoi salutarlo, perché tra l'altro è un'organizzazione estremamente attiva e che soprattutto ha in programma di fare un'iniziativa molto importante che verrà annunciata proprio il 1 ottobre, dopodomani, nel corso dell'evento pubblico che nel pomeriggio sarà esclusivamente online, darà il via al mese dell'educazione finanziaria ottobre 2020. E allora diamo il benvenuto a Due di Denari al professor Daniele Previati, che è il presidente dell'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari dei Mercati Finanziari e Finanza d'Impresa. Docente a Roma 3. Buongiorno professor Previati. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e a voi che organizzate questa bella trasmissione. Ah, meno male, grazie. Grazie, grazie. Facciamo come vede il possibile, poi si può sempre fare meglio, come diceva l'ascoltatore, come sollecitava l'ascoltatore sui corsi dell'associazione. Allora, ci spieghi un po', perché c'è un impegno dell'associazione appunto dei docenti di economia, di intermediari, eccetera, ad EINF, esatto, per diffondere sapere previdenziale tra gli studenti universitari. Sembra quasi un po' una contraddizione in termini, no, professor Previati? Ma non mi sembra che sia una contraddizione in termini, perché certamente l'università offre molti corsi in materia di finanza, quindi di scelte finanziarie, però lo fa ovviamente a una porzione molto limitata della popolazione. E l'occasione di questo concorso di idee, che si intitola Idee per il futuro, concorso per studenti universitari sull'educazione previdenziale per i giovani, vuole coinvolgere proprio gli studenti universitari, che dovrebbero, appunto, come voi dite giustamente, avere più competenze rispetto alla media della popolazione, però nel proporre delle idee per favorire un miglioramento dell'educazione finanziaria, in particolare previdenziale. E a questo fine, con la collaborazione del comitato, verranno messi in palio 20 premi da 1.500 euro ciascuno, suddivisi in due categorie: 10 premi per gli studenti più giovani, quelli dei corsi di laurea triennale, e 10 premi per gli studenti, diciamo, che vanno oltre la laurea triennale e quindi seguono corsi di laurea magistrale. Il concorso è aperto a tutti, il bando verrà collocato sul sito dell'associazione adeinf.it a partire dalla mattina del 1 ottobre e verrà presentato, come avete detto voi, durante l'evento inaugurale del mese dell'educazione finanziaria. Giovedì pomeriggio, il 1 ottobre, che è il giorno appunto di inizio del mese. Aspetti, perché lo scopo glielo facciamo raccontare dopo le informazioni sulla viabilità, cioè il traffico. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno. Mi avete rotto le balle con sto traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presenta Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Quando dite che lo stipendio pensionistico pubblico non sarà sufficiente, cosa intendete dire? Uno che ha lavorato 43 anni, quanto prenderà? La pensione è il sogno degli italiani. Io ho 76 anni e più 7,30 di pensione. È un incubo, non un sogno. La pensione potrebbe diventare per molti un incubo, per qualcuno un miraggio in realtà. E poi, insomma, diciamo che le prospettive del primo pilastro, cioè la pensione quella pubblica, quella INPS per capirci, o quella, insomma, delle casse professionali, in prospettiva sarà sempre più ridotta. Speriamo non così esigua come ci segnala l'ascoltatore, ma insomma certamente non ci saranno grandissimi importi in crescita, perché campiamo di più e questo è un bene. Spieghiamo il motivo anche per cui certe riforme un po' dolorose negli ultimi anni sono state necessarie, Mauro. Ci sono meno nascite e questo non è forse un bene, e poi soprattutto c'è più difficoltà da parte dei giovani a entrare nel mondo del lavoro. Insomma, io ho fatto tutta questa premessa e mi sono molto allargato, perché c'è in collegamento il professor Daniele Previati, che è presidente dell'ADEINF, come abbiamo detto, e che presenterà proprio un'idea per il futuro, un concorso per gli studenti universitari sull'educazione previdenziale per i giovani. La prego, professore, non mi rimandi, non tiri il libretto in cortile, professor Previati, ma ci dica qual è lo scopo di questa iniziativa. Lo scopo è appunto quello di utilizzare i giovani studenti universitari al fine di proporre delle idee realizzate, tra l'altro in formato digitale, o meglio proposte per un formato digitale, quindi per un sito, per un'app, e per diffondere appunto in modo semplice, chiaro, ma anche, diciamo, rigoroso, degli stimoli per favorire dei comportamenti positivi nei confronti della previdenza, in particolare della parte della previdenza che riguarda la pensione, perché da questo punto di vista devo dire la questione previdenziale in Italia, come in altri paesi, è una questione non solo di apporto dello Stato da un lato, o di iniziative private, quindi quello che si chiama il contributo del secondo o del terzo pilastro, quindi dei fondi pensione di diversa natura, ma è secondo noi anche un punto culturale, no? Quindi la questione previdenziale è una questione anche non solo razionale, ma anche molto emotiva, quindi sentimenti nei confronti delle pensioni. Pensiamo a quello che sollevano di solito i provvedimenti sulle pensioni, no? Quindi rifiuto, ricorso al paternalismo, istinto di delegare qualcuno che se ne occupi meglio di noi, oppure far prevalere il fai da te. E in questo devo dire l'iniziativa che voi avete presentato del Comune è un'iniziativa in vero molto interessante, perché non solo le istituzioni, quindi lo Stato, il Comitato, in questo caso per le attività di educazione finanziaria, un'associazione di docenti universitari come noi, ma tutto il mondo, tutta la società, quindi le comunità si devono muovere su questo, e ovviamente lo possono fare con l'aiuto di persone che abbiano non solo competenze, ma direi entusiasmo da mettere in campo, perché indubbiamente la questione previdenziale e pensionistica in particolare in Italia riveste una grande importanza e richiede, a mio avviso, non solo il delegare allo Stato o al privato, ma richiede una coscienza, quindi una cultura, lo sviluppo di valori su questi temi. Professor Previati, questo è prevalentemente lo scopo di questa iniziativa, quindi non tanto di dare soluzioni, ma di stimolare la presa di coscienza e la curiosità, la presa di coscienza, esattamente. E infatti molte iniziative di questo mese saranno dedicate a questo argomento, noi le seguiremo costantemente. Abbiamo un minuto e mezzo prima di salutarci, professor Previati, ma sicuramente troveremo l'occasione per tornare ad invitarla prossimamente. Prendo spunto da un messaggio di un ascoltatore che dice: io capisco quello che state dicendo, ma noi paghiamo sempre uguale per prendere sempre di meno, non è mica giusto. Il punto è non capire effettivamente certi trend, certe dinamiche che non vive solamente l'Italia, ma vive tutta la collettività mondiale, e la dinamica della longevità, la dinamica demografica. Se fino a qualche anno fa si andava in pensione ad una certa età e la pensione doveva bastarti perché l'aspettativa di vita era di un certo tipo, di un tot di anni, oggi il punto è l'aspettativa di vita, che è molto più lunga, per cui tutto quello che tu hai accumulato durante la tua vita previdenziale in termini di contributi deve essere poi spalmato su un numero maggiore di anni. Perché si fa così fatica a comunicare questi messaggi, professor Previati? In un minuto ce lo deve dire. Secondo me è una questione prevalentemente psicologica, perché nel momento in cui si allunga il tempo fra il sacrificio e il beneficio, e questo è legato ovviamente al fatto che ci si invecchia e quindi si siano allungati anche i termini per andare in pensione, come sappiamo negli ultimi 20 anni in Italia, è chiaro che la distanza temporale, le incertezze lavorative, le variabili demografiche, le complicazioni economico-finanziarie ovviamente accelerate dalla pandemia purtroppo che stiamo vivendo, portano a una serie di situazioni psicologiche di depressione. Ecco, questo va evitato, perché in realtà ci sono molte istituzioni, molti soggetti che stanno operando positivamente su questi temi, e non solo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche privati, anche in termini educativi, appunto, come si sta cercando di fare col MESE. Quindi direi bisogna guardare al futuro con ottimismo e soprattutto cercando di mettersi in campo, gli studenti, i docenti universitari, le comunità, come diceva il sindaco. È uno sforzo collettivo, perché è un problema collettivo e a fronte di un problema collettivo bisogna muoversi tutti. Noi faremo il nostro podcast tratto dalla puntata di oggi, e naturalmente ci sarà anche la scheda sul tema della previdenza integrativa, perché visto che facciamo l'alfabeto del risparmio, oggi toccava alla P di previdenza integrativa. Non abbiamo fatto in tempo a mandarla oggi, ma sarà ben pronta e presente nel podcast sulla rubrica di oggi. Mentre domani parliamo di lavoro, naturalmente. Bene. Quindi restate connessi. Grazie professor Previati, alla prossima. Grazie a voi. A domani. Grazie a voi, alla prossima. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.